Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, la netta vittoria del Milan in copertina, ma anche l'addio di Delio Rossi al Palermo con parole molto accorate e con una partecipazione popolare molto affettuosa nei confronti dell'ormai ex allenatore. Uno striscione molto, molto fiorentino fuori dallo Stadio Franchi di Firenze per contestare la proprietà dei fratelli della Valle, le inevitabili polemiche seguite a San Siro a una partita che non è stata una partita, ma è stato un match a senso unico, anche se alla fine del primo tempo, per la verità, credo che sia i tifosi di Milan che di Napoli potessero aver diritto al rimborso del biglietto. Poi nel secondo tempo tutto è cambiato fin dall'avvio e quel po' di partita che nel primo tempo c'era stato non c'è più stato del tutto. Tutto ovviamente passa in secondo piano, come siamo abituati da noi, anche una superiorità così netta, anche tre gol di scarto che potevano essere cinque, forse anche sei, senza due interventi miracolosi di De Santis e una terza signora parata. Tutto passa in secondo piano rispetto alla decisione di Rocchi di concedere quel calcio di rigore. Basta leggere le pagelle dei quotidiani di stamane, sportivi e non, per averne una conferma. Io credo che questo episodio di ieri sera sia, dal mio punto di vista perlomeno, è un altro spot per la non moviola in campo, nel senso che qualsiasi fosse la decisione, fosse stata la decisione di Rocchi, sarebbe stata contestata e non c'è minimamente uniformità di opinioni e di vedute a distanza di ore ormai, così come non c'era sui quotidiani che l'hanno valutata. Pensate che si va dal Corriere dello Sport: voto a Rocchi 4,5, rigore inesistente; Repubblica: voto a Rocchi ancora 4,5, rigore non c'era. Poi si sale alla Gazzetta dello Sport: voto 6, rigore che fa discutere. Al Corriere della Sera: il rigore c'era, voto 6, e a firmare il servizio è Casarin. Dopo vi leggerò la spiegazione, perché è certamente la più autorevole. Fino alla Stampa: voto 6,5, il rigore c'era. Questo giusto per dare un estratto di panorama informativo. Le voci che arrivano da ieri e che per una volta precedono la rubrica di calcio internazionale, che andrà in onda nella seconda parte del programma. Poi dalle 14:30 in avanti ci sarà spazio per i vostri interventi e per gli altri argomenti. Vi dicevo, per esempio, dell'addio di Rossi e di altre cose ancora. L'opinione di Pato, che è stato senza ombra di dubbio l'uomo che ha deciso la partita nel secondo tempo, il miglior uomo in campo. Mi fa piacere giocare nella squadra di grandi campioni, sono felice di avere questi, non compagni, però tutti fratelli, sono felice. Adesso è solo pensare a fare il nostro lavoro e sono contento perché ho fatto il mio migliore. Voglio sempre giocare, le scelte del mister sono per bene della squadra, io sono qua, solo devo fare solo il mio lavoro. Pensiamo alla prossima partita contro la Juve, e il campionato lasciamo, pensiamo solo a noi. Un Pato protagonista assoluto che ha rubato la scena a gioco lungo a Ibrahimovic, e se si vuole provare a guardare in prospettiva, questo potrebbe diventare un problema, perché insomma mi pare sia palese ormai che i due non si amino. Ma mentre prima, fino a ieri sera, era palese il fatto che Ibrahimovic non amasse Pato e lo rimproverasse, lo ha fatto per l'intero primo tempo in maniera anche molto plateale, nel secondo Pato ha cordialmente ricambiato, ignorando Ibrahimovic in almeno due occasioni e aspettando scientificamente quell'inserimento di Boateng per il 2-0, pur di non passare il pallone a Ibrahimovic, che era smarcato già in area bello pulito da alcuni secondi. Quando poi si è trattato di andare a segnare personalmente il terzo, anche in quel caso ci stava l'apertura per Ibra sulla sinistra, ma Pato se ne è guardato bene, ricambiando appunto gli atteggiamenti eccessivi che Ibrahimovic aveva avuto fino a lì nei confronti suoi. Sono ovviamente problemi di abbondanza questi, no? Che probabilmente molti allenatori vorrebbero avere, ma che in prospettiva però a qualche complicazione potrebbero anche portare. Sul fronte napoletano Ci sono state anche scelte incomprensibili, perché quella di Mascara sinceramente credo richiederebbe un trattato a parte. Come sia stato così mai messo nelle condizioni di poter nuocere Cavani, visto che fin dal primo minuto con questi lanci lunghissimi dalla difesa non hanno fatto altro che sfiancarlo, lanci oltretutto che finivano, già Cavani era prigioniero di una morsa nesta Thiago Silva, che non è esattamente quella che un attaccante si può augurare, ma oltretutto sparacchiare palloni nel vuoto a quella maniera sinceramente non era il modo migliore per valorizzare un talento come quello del centravanti napoletano. Altri commenti, arriviamo a quelli più saporiti, per esempio Allegri sul rigore che ha orientato la partita. Quello del campo era, secondo me era rigore, rivedendola le immagini mi può lasciare dei dubbi, però credo che anche domenica scorsa a Chievo, vedendola dal campo, la stessa sensazione, Robinho avesse fatto mano e dopo rivedendo la televisione sembrava di no. Però credo, indipendentemente da questo episodio, credo che il Milan abbia fatto una buona partita. Non abbiamo concesso un tiro in porta al Napoli e quindi credo che la vittoria sia meritata. Ma io credo che il primo tempo abbia fatto molto bene di dietro e a metà campo. Davanti abbiamo sbagliato molto. Quello che mi è piaciuto molto è che la squadra dopo l'1-0 ha continuato a giocare in avanti, a cercare il 2-0, a cercare il 3-0. Quindi insomma sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi. Beh, lo credo bene. Questa sensazione di cui ha parlato Allegri, personalmente è stata la stessa mia, esattamente davanti, in questo caso però davanti al televisore. Scrive Paolo Casarin, che insomma qualche partita ad alto livello l'ha diretta, promuovendo l'arbitro Rocchi. Siamo al quarto del secondo tempo, l'arbitro Rocchi, che ha diretto il primo con molta attenzione ed equità tecnica, è ben piazzato ai bordi dell'area del Napoli e segue un attacco prolungato del Milan. Dopo un contrasto duro tra Ibra e Cannavaro, il pallone vola alto sulla linea di fondo nei pressi della porta di De Santi. Spato salta di testa e Aronica gli contende il pallone alzando inaspettatamente il gomito che impatta chiaramente la sfera. Rocchi vede il tocco di Aronica e non può che fischiare il calcio di rigore per il Milan. Così in diretta TV, quasi come essere al posto di Rocchi. Ripeto, stessissima sensazione. Il commento invece di Mazzarri. Allora, intanto noi non eravamo brillanti, un campo così ci ha un po' penalizzato sul nostro gioco e va sui tempi, loro fisicamente stavano meglio, sono più forti e noi abbiamo anche probabilmente risentito il viaggio, la partita di giovedì, tante cose, non siamo riusciti a fare il nostro gioco come in altre gare. I ragazzi si sono arrabbiati, anche si sono anche disuniti, hanno sbagliato, bisognava che li fermassi dopo l'1-0 perché siamo andati allo sbaraglio, si è permesso al Milan in contropiede di chiudere la partita. Lì c'era un fallo netto su Cannavaro prima del potenziale rigore, che sono quei rigori che mi hanno detto che ci possono stare, a volte non si danno, a volte si danno, qualsiasi strattenuto o qualsiasi spinta in aria si può dare, poi nel ci sta o ci poteva stare, a volte si danno e a volte no, oggi si è dato. L'attenuante della fatica in Spagna, tra l'altro con un esito negativo che pesa sempre il doppio, poi è oggettiva e questa può essere invocata. Vi dicevo di questo striscione alto 5 metri, scritto in vernice rossa su un panno bianco, esposto stamane al Bar Marisa, ritrovo storico dei sostenitori della Fiorentina fuori dallo Stadio Viola. Lo leggo, anche se è discretamente offensivo nei confronti della famiglia della Valle, lo leggo perché ogni tanto i fiorentini insomma hanno questo humor urticante ma sinceramente irresistibile. La striscione recita: si è esiliato Dante, poeta divino, figuriamoci te, illustre ciabattino. Al di là del rigore, scrive Giorgio da Lucca, mi ha meravigliato la sottomissione di Rocchi, che già al sesto si è dovuto inchinare a una litata a 5 cm di Gattuso con successivo eccetera in mondovisione. Ho sempre l'impressione che a qualcuno sia concesso un po' troppo, lei che ne dice? Dico che ha ragione lei, ha ragione per esempio Nuccio Bernini, che scrive sullo stesso argomento e che anche nel suo caso censura queste prepotenze verbali di Gattuso. Evidentemente ineliminabili, perché anzi direi che aumentano con il passare degli anni, ma tutto questo, ripeto, poco c'entra con un 3-0. Adesso cambiamo capitolo, torneremo su Milan-Napoli dopo l'intervallo per i mercati e andiamo a trovare Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Senti, a volte penso che poi in Europa certe sceneggiate paghino di meno, certo. Nel senso che poi succede anche che ci siano arbitri meno tolleranti, no? meno disposti a farsi, per citare la definizione del tuo ascoltatore, alitare in faccia, certo. Può succedere. Giustamente, direi. Sì. Io aprirei con un messaggio per te, una domanda per te da Roberto, che ti chiede da Arezzo chi sia quel Castagnò preso dall'Inter. Castagnò è un bel giocatore, l'abbiamo sempre visto in immagini, in highlights, quindi con il limite di un campionato come quello olandese dove non, almeno io non sono riuscito a vederlo in partite complete, e questo ammetto sia un limite, però per quel poco che si è visto è un bel giocatore veloce, ha un bel tiro, è un giocatore interessante, per cui tra l'altro credo che faccia buona pubblicità per lui il fatto che molte grandi squadre lo cercassero, e quindi credo che sia un buon acquisto in prospettiva, magari non prontissimo da subito, magari da aspettare anche qualche mese, però credo che sia uno che possa stare in squadra nell'Inter, quindi mi sembra una buona idea. Una buona mossa. Senti, sì. Fabio, personalmente l'immagine che mi ha colpito di più è stata la stretta di mano dell'intero fine settimana tra Mancini e Hughes, suo predecessore, sulla panchina. Sulla panchina del City al termine della partita pareggiata dal Manchester City. La vuoi provare a raccontare agli ascoltatori? Beh, intanto bisogna raccontare il precedente, cioè Mark Hughes era l'allenatore del Manchester City, difeso a spada tratta dai giocatori che vedevano in lui non solo l'ex grande giocatore, ma probabilmente anche un confidente, un amico, o comunque un giocatore che, a parte con qualcuno, mi ricordo soprattutto Bellamy, ma andava d'accordo con tutti. Poi è arrivato Roberto Mancini, che era preceduto evidentemente da una fama diversa, poi a volte le etichette fai più fatica a staccarle che a fartele attaccare, e quindi sì. Oltretutto l'impatto di Roberto Mancini non è stato morbido, perché Mancini, lo ricorderete tutti, quando arrivò l'anno scorso cominciò subito a dire che certe abitudini al calcio inglese andavano cambiate, che i giocatori dovevano pensare di più a fare certe cose piuttosto che altre, quindi diciamo che non è entrato con i guanti bianchi nello spogliatoio del City, e probabilmente con qualcuno ha avuto anche a che dire, e alcuni hanno preferito andare via. Devo dire che il fatto che attorno a tutte queste figure, a questi personaggi, poi succede anche che personaggi miti, mi viene in mente Wenger, a volte abbiano a che dire con allenatori avversari, e mi sembra che con Hughes sia successo. Però fondamentalmente il fatto di esibirsi su un palcoscenico che premia e riconosce il fair play, che premia e riconosce la cavalleria tra uomini, mi sembra che abbia poi permeato anche questa scena che tu hai citato, perché comunque stiamo sempre parlando di uno che ha perso un posto di lavoro con un altro che gli è piombato sopra, con delle prospettive ottime, perché non stiamo parlando di un posto di lavoro precario, anche se poi il posto di lavoro è precario, ma quando una società è gestita da petrolieri magnati che pompano costantemente denaro in questa squadra, diciamo che andar via sul più bello, come accadde a Hughes, o teoricamente sul più bello, poteva anche lasciargli un pochino il dente avvelenato, cosa che peraltro non mi pare sia accaduta. Sicché alla fine stretta di mano obbligata, perché in Inghilterra non è possibile, no? Evidentemente uscire dal campo senza la stretta di mano, i due si avvicinano, Mancini tiene palesemente la faccia girata dall'altra parte, e allora Hughes questa mano gliela dà, poi vedendo la faccia dell'altro, visto che lui si è voltato invece, sia pure un po' a stento verso Mancini, fa volare la mano verso l'alto e poi rincasa verso lo spogliatoio battendosi le dita sulle tempie, no? Mi pare all'indirizzo di Mancini. Sì. E quindi capisci che esiste una differenza di stile complessivo, una differenza nella quale l'ambiente inglese è diverso in questo, cioè sì. Si sono visti anche allenatori che si sono mandati a quel paese piuttosto che allenatori che invece sono abbracciati e così. Certo. Trovo che Hughes si sia comportato esattamente come l'ambiente inglese vuole, e vabbè, insomma. Affari interni italiani invece, sempre a quelle latitudini, perché Balotelli ha segnato un gol, ma stavolta Mancini si è arrabbiato con lui per i consueti atteggiamenti. Sì, questa non è una cosa nuova, io trovo anche che da un lato ci sia, almeno Mancini sostiene sempre, lo ha fatto anche verbalmente poi con noi, di vivere in un ambiente che porta all'eccesso qualsiasi cosa, e lui sostiene che, insomma, la stampa di Manchester non veda l'ora di scrivere contro di lui e di creare problemi e tutto il resto. Quello che filtra è un certo fastidio da parte soprattutto di Mancini e dello staff tecnico per la gestione che Balotelli avrebbe. Ripeto, il condizionale è più che d'obbligo, perché io non ho visto, quindi non posso essere sicuro della la sua gestione nella trasferta americana, nella quale lui si è curato il ginocchio. Secondo me poi non aiutano certi atteggiamenti. Adesso io non sono nessuno per poter dire di che colore i capelli uno debba tingersi, però penso che tutte queste manifestazioni facciano molto innervosire Roberto Mancini, probabilmente fanno anche fatica ad abbinarsi a quello che dicevo prima, e cioè al modus vivendi che c'è nella Premier League e nel calcio inglese. E anche qui la sensazione strisciante è che tutto sommato le parti non vedono l'ora di separarsi. Insomma, Mancini non è contento del rendimento di Balotelli perché Balotelli segna parecchi gol in rapporto ai minuti che gioca, e questo è a suo favore e denota e dimostra il fatto che lui è veramente molto bravo quando si tratta di giocare a pallone. Credo che il suo atteggiamento rimanga sempre il grande punto interrogativo futuro e complessivo della carriera di Balotelli, e che tutto sommato Mancini forse preferisca avere una squadra nella quale problemi del genere non ci sono. Cioè, Balotelli è forte, ma non è così forte o non ha un rendimento così alto da poter far sì che i compagni di squadra e l'allenatore possano accettare certi comportamenti. Io credo che Balotelli possa anche diventare così forte da potersi far accettare al 100%, ma con tutta probabilità oggi non è così, e forse Mancini a sto punto, a fine stagione, non potrebbe anche sopravvivere a una separazione con Balotelli. Posto poi che sia Balotelli il primo ad andare via dal City, perché non è scritto nella pietra questo. Dunque, Guardiola stamane è bloccato da una lombalgia, non riesce letteralmente a alzarsi dal letto, informa un'agenzia spagnola, ed è in forse la sua partenza per Valencia domani sera, dove potrebbe non riuscire ad andare in panchina. Poi secondo me in qualche maniera dritto lo mettono, magari un po' rigido, ma lo mettono. Però allora, domani c'è sto turno infrasettimanale tra domani e giovedì di Liga Spagnola. Valencia-Barcellona è una delle ultime occasioni per il Real per sperare di accorciare le distanze. Il Barça potrebbe non avere l'allenatore, non dovrebbe avere Xavi oltre al portiere, e Villa che da Valencia è venuto via, okay, leggo che alle 9:15 del mattino ha una causa ad Aviles nelle Asturie per un problema di problema fiscale, di passaggi di contratto, eccetera, e la sera, certo, a Valencia fa in tempo ad arrivare, ma dipende in che condizioni. Come la vedi sta trasferita al Barça? Ma guarda, ci aggiungo anche un carico, cioè il fatto che il Mestalla è l'unico stadio dove Guardiola non ha mai vinto, e quindi insomma, se il Real Madrid pensa di poter raddrizzare ancora il campionato, e ovviamente il Real Madrid da adesso in poi non può più perderne, cioè non dico perderne, perché non può più pareggiarne una, cioè le deve vincere tutte, deve portare a casa almeno due punti più del Barcellona mercoledì, perché non esiste altra chance, perché sono tornati 7 i punti di vantaggio, possono essere quasi considerati 8, visto che il Barcellona ha vinto 5-0 all'andata contro il Real Madrid, dico all'andata perché di fatto è un match di Champions andata e ritorno, ma certo, era nel giro d'andata, e quindi io non credo che il Real Madrid vincerà 6-0 al ritorno, per carità può succedere tutto, ma mi pare difficile. E il Real Madrid ha un turno non impossibile in casa contro il Malaga di Manuel Pellegrini, quindi insomma, secondo me se il Barcellona vince a Valencia, io credo che poi, a prescindere dal risultato del Real Madrid, la Liga sia chiusa. Cioè, questa mi sembra, insieme allo scontro diretto con il Real al Bernabeu, il Gran Premio della Montagna più alto. Se il Barcellona passa anche questo, cioè se vince il Real vince, o se pareggia il Real pareggia, ma se fa lo stesso risultato del Real Madrid, io credo che la Liga, così come la Bundesliga, le possiamo considerare chiuse. Fabio, un'ultima riflessione breve, perché siamo vicini agli aggiornamenti dei mercati, ed è questa. A parte 6 portieri, l'unico giocatore in Spagna che ha giocato tutti i 2250 minuti sino ad ora è Cristiano Ronaldo. Allora, ripensando al fatto che quest'anno c'è dell'usura oggettiva nei giocatori dell'Inter, no? Rispetto alla stagione scorsa, ti domando, questa non potrebbe essere una prova che Mourinho comunque i suoi giocatori, per carità, ne ha tutto il diritto, però li sfrutta sino in fondo davvero, nel senso che il Real ha vinto molte partite con parecchi gol di scarto e magari a un certo punto Ronaldo qualche mezz'oretta la poteva pure saltare. Ma io credo che Ronaldo sia, secondo me Ronaldo è la dimostrazione più evidente che quando sento dire che i giocatori dopo tre partite consecutive devono riposarsi, mi viene in mente Cavani. Questa è una bella riflessione, sì. Io veramente mi faccio delle grasse risate, perché francamente per me è imbarazzante pensare che un giocatore di quell'età e con quella forma fisica che evidenzia anche una muscolatura pazzesca, e non sto parlando solo di Cristiano Ronaldo, possa aver bisogno di rifiatare un tempo una partita di giovedì. Quindi secondo me Mourinho è un allenatore che non farà mai come Ferguson, non allenerà mai 20 anni la stessa squadra, e quindi è perfettamente legittimo che lui voglia portare a casa tutto quello che ha dai giocatori. Credo che farlo riposare ogni tanto, sì, su un 4-0, su un 5-0 potesse essere una buona idea, ma credo anche che Cristiano Ronaldo voglia vincere il Pichichi, voglia stare in campo, voglia segnare ogni volta un gol in più degli altri, e quindi secondo me ci sta. Cioè, ben vengano i giocatori che stanno sempre in campo, perché viva Dio, il calcio si gioca in campo e non riposandosi. Molto bene, grazie Fabio Tavelli. A te Gigi, alla prossima. Beh, vediamo se i due primi ascoltatori che intervengono oggi riflettono le premesse, perché uno si chiama Marco e chiama da Milano, il secondo si chiama Ciro e chiama da Napoli. Un'idea me la sarei fatta. Marco, Milano, buongiorno. Sì, ecco, spero di non deludere la sua idea, perché io non voglio fare assolutamente polemica. Come no? Però al di là del fatto del rigore che non c'era, che io potevo anche dire che poteva anche non fischiarlo, rigore come poteva anche fischiarlo. Da milanista posso anche dire che magari c'era anche il fallo sul difensore che stava tenendo Ibrahimovic, questo va bene, penso che era Cannavaro. Però quello che ci tengo a dire, tutte le volte è una scusante, ci deve essere per forza una scusante. Ieri il Napoli non c'era. Amsinga ha preso 4,5, non è che gliel'ho dato io, gliel'ho dato Fior Fior di giornalisti, ma al di là di quello, Napoli ieri non ha giocato. Non esageriamo, ma insomma, sì. Come si chiama? Il Napoli ieri non ha giocato, il migliore in campo mi sembra che sia stato De Santis. Nettamente, di gran lunga, su questo non c'è dubbio. Sì, ma infatti non mi pare che questo sia stato discusso nemmeno dal Napoli, nemmeno da Mazzarri. Il Napoli ha completamente sbagliato serata, insomma. E mentre nel primo tempo l'aveva discretamente sbagliata anche il Milan, poi invece nel secondo la serata l'ha centrata e come. Ciro da Napoli, buongiorno. Buongiorno e grazie della possibilità che mi date di esprimere la mia opinione. Ringrazio anche il tifoso milanista, perché concordo in pieno in quello che ha detto. Noi ieri non c'eravamo. Il Milan ha giocato meglio del Napoli, assolutamente. Magari dopo il primo 0 è stato aiutato da migliore in campo, forse è stato l'arbitro. Questa è la mia opinione. Allora, il Napoli è rimasto, secondo me, scottato dalla delusione di Villarreal, non dalla fatica, ma dalla delusione, perché non è che non c'era con le gambe, ma non c'era con la testa. Il Milan è una squadra più forte tecnicamente, più esperienza, e mi domando da tifoso del calcio perché però ci devono essere sempre determinati episodi, a parte il rigore, come diceva appunto il tifoso rossonero, i tre fuorigioco non fischiati, due mettevano Cavani da solo davanti al portiere. No, uno avrebbe messo Cavani davanti al portiere nel primo tempo, Ciro, ma l'avrebbe messo davanti al portiere se malauguratamente il pallone non gli fosse sbattuto sul polpaccio e quindi non fosse stato costretto a fermarsi. Quindi in realtà davanti al portiere da solo non ci andava mai, nemmeno in quell'occasione lì. Però è vero che un paio di fuorigioco sono stati sbagliati. Ciro, però guardiamoci un attimo allo specchio serenamente. Se i guardalinea ieri hanno commesso diciamo due o tre errori nel corso della partita, Gargano e Mascara, per fare due nomi, quante palle ha sbagliato? 200.000. Vede allora che diventa dura prendersela con l'errore singolo o con quel paio di imprecisioni, quando la tua squadra, sto parlando nei panni suoi evidentemente, la tua squadra sbaglia completamente la serata. Io credo che se c'è una volta in cui si tace, no, e al massimo sì, si può far notare qualcosina, ma poco, anche perché io credo che davvero sia ora di finirla, di rivedere immagini rallentate alla fine, cioè sia ora di finirla, non finirà mai, ma rallentate alla fine, che non fanno altro che confonderti le idee, perché scomponendo l'azione e rallentandola la falsano, automaticamente la falsano. A velocità normale quello tra Ibra e Cannavaro è un normale contrasto d'area di rigore, come ce ne sono tantissimi e puntualmente non vengono fischiati, quasi sempre giustamente. E a velocità normale il riflesso di Aronica di alzare questo braccio è un riflesso che induce giustamente l'arbitro, secondo me, a fischiare il rigore, tanto più che l'episodio viene un minuto dopo che Van Bommel cade in area in una maniera che non è stata poi approfondita, per fortuna, perché tanto non ne valeva più la pena, ma che insomma qualche curiosità a me almeno l'ha lasciata. Andrea Biella, buongiorno. Buongiorno. Dica. Innanzitutto mi permetta, con un paio di settimane di ritardo, di fare le condoglianze. Dunque, ieri ho sentito dell'esonero dell'allenatore del Palermo Zamparini. Sì. Io ho lavorato per magari avessero esonerato Zamparini. No, da parte di Zamparini. Ah, ecco. No, io ho lavorato 6 anni per un'attività di Zamparini, ovviamente, sì, nel campo della distribuzione. Senza entrare nei meriti se è giusto o meno. La interrompo un'ultima volta e poi non la farò mai più. Quindi lei probabilmente detiene un primato, perché 6 anni con Zamparini, cioè se la sente Delio Rossi o se la sentono gli altri 28 allenatori che ha cosa, cioè, certamente lei ha diritto a un trofeo, insomma. Perché io non ero un direttore di un suo punto vendita. Ecco. Mi spiego, la filosofia di Zamparini anche a livello imprenditoriale è sempre stata quella per cui se quel punto vendita non funziona, mando via il direttore e lo cambio. Sì. Non si è mai ragionato su altre questioni. Non dico che sia un modo di agire giusto o sbagliato, perché a livello commerciale in qualche caso ha portato dei risultati. A livello sportivo è evidente che magari non è forse il caso di ragionare sempre allo stesso modo. Però davvero la mia esperienza lavorativa con Zamparini è quella. È quello. Lui, quando non funziona un suo supermercato. No, ho capito Andrea, però lui licenzia il direttore. Mi tolgo una curiosità. Quando però poi il sostituto a sua volta non funziona, riprende il primo oppure cambia ancora? No, beh, delle volte è tornato il vecchio direttore. Vede, perché questa. No, cioè, io la ringrazio di questa. La ringrazio di questa testimonianza perché è preziosissima, nel senso che è da ieri che sto invano chiedendo la quota ai bookmaker e però non l'ho trovata, di quanto vale il ritorno di Delio Rossi, no? E quant'è la quota a seconda di quanto più presto torna, no? Di quanto prima torna. Perché? Perché Zamparini, e ho qui sott'occhio una delle statistiche curiose di Franco Piantanida, non è soltanto il primatista assoluto in Italia di licenziamenti di allenatori, ma è anche il primatista assoluto di richiami dello stesso allenatore. Senta questo elenco. Lei ci ha appena confermato che anche nei supermercati funziona più o meno alla stessa maniera. Allora, nel 92 a Venezia, Zaccheroni, Marchesi, Zaccheroni. Naturalmente quello che c'è in mezzo è il Cosmi attuale e la ripetizione di Zaccheroni vuol dire che è stato poi richiamato. 93 Venezia, ancora Zaccheroni, Maroso, Zaccheroni. 95 Venezia, Ventura, Maifredi, Ventura e poi un altro ancora, Geretto, perché quell'anno andava così. Venezia 97, Bellotto, De Vecchi, Bellotto. Venezia 2000, Spalletti, Materazzi, Spalletti e poi Oddo. Palermo 2006-2007, Guidolin, Gobbo, Pergolizzi, Guidolin. 2008, Colantuono, Guidolin, Colantuono. 2011, Palermo, Delio Rossi, Cosmi vediamo. Delio Rossi con la città si è lasciato molto bene e dopo vi leggerò qualche sua dichiarazione. Vediamo come evolve, insomma. Mimmo Salerno, buongiorno. Ah, buongiorno a lei, dottor Garanzini. Dica. Che piacere sentirla. Grazie. È sempre un piacere. Senta, una richiesta e due considerazioni. La sì. Richiesta è, si potrebbe allungare un po' l'orario di questa trasmissione, no, che è così, così Mimmo, simpatica? Mimmo, la ringrazio del pensiero, ma io starei così e comunque al massimo posso inoltrarla, ma non è a me che si deve rivolgere. Lo so. Guardi, è sempre un piacere perché si parla di calcio e non solo di calcio, anche come stili di vita. E sarebbe proprio, secondo me, anche di tanti. Non allarghiamoci. Due considerazioni. Una è su Napoli. Io sono un simpatizzante, anche se non tifoso del Napoli, sono un simpatizzante. Le posso dire, ieri Napoli era completamente sfilacciato. Ieri ha dimostrato che quando 4-5 giocatori non sono al massimo, il Napoli diventa una squadra, secondo me, mediocre. A prescindere poi il calcio di rigore, c'è, non c'è, tutto da vedere. È una considerazione su Balotelli. Io ho avuto modo di conoscerlo, le posso dire, è un ragazzo, e di questo bisogna darne atto, però quello che sa fare con i piedi non sempre riesce a pensarlo con la testa. Mm-hmm. E secondo me non c'ha, penso di sbagliarmi, non c'ha una grossa possibilità di fare, di diventare un campione. Mm. Grazie, la sento per radio. Mimmo, credo che si stia facendo strada questa no, questa scuola di pensiero, nel senso che è vero che ha compiuto 20 anni lo scorso agosto, però insomma comunque, anche se beato lui, l'età è quella, ma il tempo sta passando e miglioramenti proprio non se ne vedono, e questo mi sembra una riflessione da fare. Savino ha chiamato da Belluno, buongiorno. Buongiorno a lei. Prima di tutto i complimenti, oltre che alla trasmissione, alla sua bellissima rubrica storica che ci fa insomma tornare un po' felicemente dietro nel tempo. Sì. Una piccola considerazione. Uno, è bellissimo vedere i tifosi, la riconoscenza dei tifosi nei confronti dei loro presidenti. Mi riferisco ovviamente allo striscione di cui sopra, insomma, esposto a Firenze. Io non credo che io non sono ovviamente tifoso della Fiorentina, però non credo che della Valle meritano insomma un trattamento del genere dopo quello che secondo me hanno fatto per la Fiorentina. L'ho letto perché come sanno scudisciare i fiorentini credo che non sappia nessun altro, indubbiamente. Nessun genere di problema. Un'altra piccola cosa, riferendomi al discorso Balotelli mi sembra tanto un Cassano 2. Io sono un pugliese e sono veramente deluso da Cassano, perché con il suo talento sarebbe potuto diventare, secondo me, un calciatore a livello di Messi. Mm-hmm. Però l'ha buttato veramente per strada, con tutto che ha veramente fatto, nonostante i suoi capricci, tra virgolette, ha fatto quello che ha fatto. Quindi figuriamoci se fosse stato un po' più ligio al dovere. Sì, mi sa tanto che Balotelli sta percorrendo. Sì, è su quella strada lì, Savino. Mi scusi, ma sta arrivando, anzi, è già passata l'ora del traffico, anche se lei ha detto Cassano Messi, e per fortuna a Barcellona non ascoltano e non hanno soprattutto legali in ascolto, no? Per proporre querele. Non eravamo proprio all'area di aggiornamento di mercati, queste informazioni di traffico. Sorry. Allora, Nicola Filippone con la sua rubrica per scoprire cos'è accaduto in un primo marzo. Sembra ieri. Primo marzo 1921. Jules Rimet viene eletto alla presidenza della FIFA. Il dirigente francese, che rimarrà al vertice dell'organizzazione per 33 anni, imprimerà alla Federazione Calcistica Internazionale una svolta fondamentale. Sarà lui a voler fortemente organizzare un torneo mondiale tra nazionali, da svolgere a cadenza quadriennale. E sarà proprio il presidente Rimet che sarà a un certo punto intitolata la Coppa Vittoria, il trofeo assegnato alla nazionale campione del mondo. Nel 1970 il Brasile porterà a casa definitivamente la Coppa Rimet, dopo essersi aggiudicato 3 edizioni del Mondiale. C'è un frammento ora di conferenza stampa di Zamparini su Cosmi, immagino sentiremo che era l'allenatore ideale che inseguiva da molto tempo. Sentiamo. Per Cosmi, l'abbiamo convenuto insieme, è un treno molto importante che gli passa davanti e lui deve saltarci sopra in corsa prima che vada da un'altra parte, insomma, per cui lui l'ha visto come una grande occasione, e io l'ho visto anch'io come una grande fortuna con lui, e siccome lui fra le altre cose è un grande motivatore, esattamente l'opposto del carattere di Rossi, spero che lui dia alla squadra quello che non ha dato Rossi dal punto di vista delle motivazioni e dell'allegria. Ce l'aveva anche Rossi, la carta bianca, solo che con Cosmi ci siamo parlati chiari oggi e ci sentiremo almeno 2 o 3 volte alla settimana, anche 4, fino a quando non avrò il mio direttore sportivo in efficienza, poi parlerà con lui e naturalmente sulla strategia della squadra parleremo insieme sulle varie situazioni, in maniera che io non debba andare a parlare sui giornali. Quando io sono andato a parlare sui giornali è perché non mi ascoltavano in altre sedi. Un grande applauso, i cori di tanti tifosi presenti hanno accolto l'ex allenatore Delio Rossi nella sala stampa dell'Addaura Hotel, dove ha parlato e ha salutato Palermo prima di partire. Rossi era particolarmente commosso, a questi applausi ha detto: non rendete la situazione più difficile di quanto già non sia. Ha spiegato il perché di questi saluti e poi ha detto alcune frasi, per esempio: penso che la storia fosse scritta da tempo, ma mi dispiace per questo epilogo. forse a bocce ferme a fine campionato proverò a spiegare come è maturata. A proposito di Zamparini, ha detto: è ovvio che le critiche personali mi hanno dato fastidio, a livello professionale mai nessun problema, lì le critiche ci stanno, ma a livello personale no, perché qualcuno può dire che non sono un bravo allenatore, ma non che non sono una buona persona. E poi ancora, penso che l'inizio della fine siano state le dimissioni del direttore sportivo Sabatini. Se dopo aver raggiunto la qualificazione nella competizione europea qualcuno già ti mette in discussione e il DS se ne va, vuol dire che c'è qualcosa di storto. Mi hanno fatto piacere gli applausi anche domenica alla fine di quella partita e di quell'umiliazione con l'Udinese, ha detto Rossi ormai quasi in lacrime, ma mi hanno anche fatto male perché ho capito che era finita. Non volevo poi che si dicesse che sarei rimasto solo per l'appoggio della gente. Se uno rimane è perché se lo merita e non solo per il feeling con il pubblico. Rossi dribbla anche l'ultima domanda, quella di un eventuale ritorno. Con i se e con i ma non si fa la storia. Ma avete sentito che in precedenza che Zamparini quel genere di storia l'ha fatta spesso. Mauro dalla provincia di Alessandria, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi richiamato. Volevo solo dire una cosa, questo vale per la radio come per la TV, ma perché tutti quanti non smettiamo di parlare di rigori che non c'erano, di rigori che c'erano, di fuorigioco, i due rigori del Milan? Sarebbe più bello rivedere qualche azione in più, rivedere qualche passaggio bello, qualche stop. Ieri ho visto Pato fare due controlli eccezionali, cioè, non lo so, secondo me. Non so cosa ne pensa lei. Guardi, io penso questo, che basta volerlo secondo me, perché c'è l'esempio molto interessante di quest'anno della Domenica Sportiva, che ha abolito la moviola. La Domenica Sportiva ha abolito la moviola e quando in estate lo ha annunciato, quando la RAI lo ha annunciato, sembrava da parte di qualcuno che fosse un autogol clamoroso. Mi sembra che la Domenica Sportiva, adesso non è che non la vedo, però seguo il lunedì, tutti i lunedì seguo i dati. Mi sembra che non abbia perso un solo ascoltatore di media dallo scorso anno, anzi forse qualcuno lo ha guadagnato. Quindi vede che probabilmente questa rivoluzione copernicana è possibile. Basta volerlo per l'appunto. Certo, ieri sera, durante la diretta di Sky, il fatto che in genere tende ad essere abbastanza sobria nei replay, il fatto che invece nei minuti successivi all'episodio ci sia stato un autentico bombardamento di replay, sempre più rallentati e dunque sempre più incomprensibili, a me personalmente ha dato un fastidio cane. Roberto da Salerno, buongiorno. Sì, buongiorno, dottor Garanzini. No, io volevo semplicemente fare questa riflessione. Ieri, io ho un mio figlio, ha 13 anni, è tifoso del Milan, sfegatato, eccetera. Ieri abbiamo visto la partita insieme, ovviamente faccio il tifo per il Milan di riflesso, perché certo, se vince è contento mio figlio. Però onestamente mi ha dato molto fastidio una cosa, che poi abbiamo fatto una riflessione con mio figlio. Lo stesso Gattuso, che è stato un giocatore eccezionale, io me lo ricordo a Salerno, proprio manca a farla apposta con Dario Rossi, che lo lanciammo noi, lo prendemmo dalla Scozia e poi da allora ha fatto una carriera splendida. Sto parlando della Salernitana, purtroppo l'unico anno in cui in Serie A, poi dopo fece quella retrocessione clamorosa. Questo mandare a quel paese agli arbitri onestamente è insopportabile, perché a un certo punto io mi sono trovato a discuterne con mio figlio. Sì. E onestamente, Roberto, al di là, io sono completamente d'accordo con lei, al di là dei dialoghi con suo figlio, io lo credo credo proprio che lei abbia centrato il problema, cioè questo atteggiamento è profondamente diseducativo, oltre che scorretto, oltre che tollerato soltanto in Italia e non esportabile, lo trovo profondamente diseducativo e quindi non capisco perché continui a essere tollerato a questa maniera. Certo che il giorno che ieri credo che questa alitata, no? Come l'ha definito il primo ascoltatore di oggi, a pochi centimetri dal viso di Rocchi, dell'arbitro, risalisse ai primissimi minuti, credo che fossimo intorno al decimo, quindicesimo minuto del primo tempo. Certo che farà sensazione il giorno che un arbitro lo dovesse, farebbe sensazione il giorno che un arbitro lo dovesse espellere. Va bene, pazienza, ci sarà un giorno di sensazione, però se all'arbitro è vietato dire di andare a quel paese e soprattutto di urlarglielo in faccia con quella platealità da un metro, bisognerà pure che un giorno ci sia un giudice a Berlino, no? Vittorio Parma, buongiorno. Buongiorno, sono Garanzini. Dica. Io volevo dire una cosa, a volte però è troppo facile parlare, anche la bellissima frase che ha detto il ragazzo prima, sarebbe un bel lavoro che si smettesse, ma di tutti i tifosi è difficile che smettano, i tifosi sono tifosi, punto e basta, e difficilmente si cambieranno, Toto ha ragione, difficilmente si cambieranno, però quando a un'intervista alla radio, posso dire anche qua, alla radio anch'io, si intervistano Sacchi e Bigon per ricordare i vecchi tempi e il signor Sacchi se ne viene fuori dopo 20 anni ancora con la storia della monetina, come si fa a pretendere poi dagli altri, da persone che non sono addette ai lavori, di essere nel giudizio pacati o tranquilli? Non lo so, io mi sento un po' confuso tra ascoltare la radio e quello che dicono i tifosi, tutto qui. La capisco, bisogna sempre vedere il contesto, perché per esempio cioè, un conto è se gli hanno fatto delle domande per rievocare quelle sfide di allora e quei veleni di allora, un conto è se uno le chiama in casa gratuitamente. Ieri anche il Presidente del Consiglio ha detto pubblicamente, ieri mattina, ci vediamo al Milan per battere il Sud, no? De Laurentiis gli ha risposto trattandolo showman e secondo me gli ha fatto un complimento rispetto a come, no, viene percepito oggi in Europa, nel mondo, il nostro premio. Ci vediamo al Milan per battere il Sud. Secondo me, dato che si tratta del miglior statista degli ultimi 150 anni, è stato un bel gesto per rimettere in palio questo titolo, no? Nel 150enario dell'Unità d'Italia, ma queste ovviamente sono opinioni. Grazie a tutti gli intervenuti, grazie a Filippo Aureggi in regia, Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio.